sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il poliziotto al quale mi avvicinai mi intimò l'alt e mi fece cenno di tornare indietro. Io gli dissi semplicemente Makarska, ma egli gridò Nograkats, Nograkats e mi indicò la strada alle mie spalle. Il messaggio era chiaro, dovevamo tornare indietro. Sono Michele, ho 53 anni e vivo a Bussero in provincia di Milano. Di professione faccio l'agente di commercio, ma la mia più grande passione sono i libri. Ho due figli, due ragazzi adorabili e belli come il sole, Federica e Andrea, e una compagna, Giovanna, che saluto e che spero mi stiano ascoltando. Bene, salutiamo anche noi Giovanna e tutta la famiglia di Michele che sicuramente staranno ascoltando e sicuramente si scaricheranno il podcast attraverso il sito o iTunes in abbonamento gratuito come fanno un sacco di altre persone. Buongiorno a tutti, sono le 16:09:30 per la precisione da Milano, dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 91. Io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi, prima di cominciare, devo chiedere scuse in anticipo a tutto il popolo jugoslavo, a tutto il popolo croato nella fattispecie, per il mio terribile accento. Michele ci racconta una storia che parla di quelle zone, parla di una vacanza fatta nel 1990 che però si intreccia inevitabilmente alla storia, alle storie di guerra e di sangue che ha invaso quei paesi e quella zona dell'Europa e del mondo in realtà in quegli anni, e quindi fa delle citazioni, cita dei nomi che io purtroppo non so citare, quindi eventualmente li chiederò lui più tardi, ma comunque in anticipo chiedo scusa per la cattiva pronuncia. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, oppure il profilo Facebook del programma Voi siete qui Radio 24, ma anche Voi siete qui R24, dove la sempre incredibilmente splendida Miriam Lucchetti sta ravanando sulla tastiera con le sue ditine per scrivere il prossimo tweet, che parla hashtag ravanando, direi Miriam, il prossimo tweet. Voi siete qui R24. Cartellino giallo di là dal vetro da parte di Fabio Cantadori. Oggi raccontiamo di quella zona lì, e quali sono i vostri ricordi dell'ex Jugoslavia? Che cosa ricordate di quella zona? Se ci siete stati, dove siete stati, che cosa avete visto? O se invece avete incontrato delle persone che hanno fatto parte in qualche modo della vostra vita? 349-238-6666, ravanate con le vostre ditine sulla tastiera del vostro smartphone. Fabrizio, sono stato in Croazia in vacanza, mi ricordo le enormi porchette che giravano sugli spiedi nei locali lungo le strade. Ognuno c'ha il ricordo, diciamo, il primo ricordo che gli viene in mente di quelle zone. Invece, quella che sto per raccontarvi è la storia di Michele, che racconta di un ragazzo slavo che si chiama Gabriel. Estate 1990. La vacanza iniziava sotto i migliori auspici. Il traghetto era partito puntualissimo e la compagnia, quattro coppie di amici, era simpatica e divertente. La nave, alle prime luci dell'alba, giunse in vista di Dubrovnik. Ed io ero già sul ponte armato di macchina fotografica. Solo dopo una buona mezz'ora riuscimmo a portare le auto fuori dalla nave e ripartimmo. Il viaggio fu piacevole, anche perché ci dette l'occasione di ammirare la bellissima costa dalmata. Giungemmo a Makarska sul finire del giorno e prendemmo a girare per la città, soffermandoci a visitare le numerose case che esponevano il cartello Rooms to Rent. Molto presto ci rendemmo conto che trovare da dormire non sarebbe stato facile. Stavamo per rassegnarci ad una notte in albergo quando la nostra auto fu affiancata da un buffo signore a bordo di un vecchio ciclomotore. «Cercate casa?» domandò in italiano un po' incerto. «Sì», rispose Giorgio. «Seguitemi», disse il motociclista. L'uomo si fermò davanti ad una graziosa villa con balconi adorni di gerani. Il muro di cinta era sovrastato da abbondanti bougainville e il giardino, per quanto si poteva vedere nella poca luce dell'imbrunire, aveva un aspetto pulito, ordinato. Scendemmo dalle auto e raggiungemmo il motociclista, che si presentò. Il suo nome era Gabriel. Dopo cena, le ragazze stanchissime andarono a letto, mentre Gabriel si avvicinò al nostro tavolo con una bottiglia in mano. «Bevete, italiani, bevete!» disse nel suo italiano buffo, ma abbastanza comprensibile. Gabriel, una persona simpaticissima, riccioli rossi, occhietti penetranti, simpatico, e che tentava in tutti i modi di parlare italiano, pur non sapendolo parlare bene, ma si faceva capire benissimo. Comunque una persona con una grande dignità, infatti aveva le mani, che era un particolare che mi aveva colpito molto di lui, oltre gli occhi, quelle di una persona abituata a lavori pesanti, ma che si fosse preparato, pulito perfettamente per un'occasione particolare. Nel suo italiano semplice spiegò che la sua città era Sarajevo, dove aveva moglie e due figli piccoli. In estate però lavorava come operatore turistico stagionale sulla riviera di Makarska. Mentre parlava, ebbi modo di guardarlo meglio. Dimostrava circa 45 anni. Sotto i riccioli rossi aveva due occhi piccoli e neri, con uno sguardo molto penetrante. Le giornate che seguirono furono conformi al copione previsto: mare, sole ed escursioni nei dintorni. Le serate trascorrevano piacevolmente tra cenette, cantate con la chitarra nel giardino della casa, e interminabili chiacchierate con Gabriel, la cui compagnia si rivelò essere molto gradevole. Qualche giorno dopo dissi a Gabriel che l'indomani avremmo visitato il parco nazionale di Plitvice, così come lui si era raccomandato. Egli però non sorrise come al solito. Mi prese in disparte e mi disse: «Hai la cartina?» La prese, l'aprì e mi segnò con la matita il percorso, insistendo più volte sull'assoluta necessità di prendere la nuova strada diretta, una strada che la cartina non riportava. Partimmo, il viaggio fu tranquillo. La macchina degli amici ci seguiva come sempre. Soltanto una cosa mi colpì nel guardare le cittadine che ogni tanto attraversavamo. Su quasi tutti i muri campeggiavano degli strani manifesti, dei quali ovviamente non capivo il contenuto. Solo però la parola in testo al manifesto mi era familiare: referendum. Il parco nazionale di Plitvice fu davvero interessante e alla fine della giornata eravamo stanchissimi, con la prospettiva di affrontare un viaggio in auto di circa 5 ore. Eravamo quasi arrivati a Gračac quando trovammo il primo intoppo: una lunga fila di auto di turisti ad un posto di blocco della polizia. Senza alcuna spiegazione, le auto erano fatte defluire per una strada laterale che si inerpicava sulle colline. Di lì a poco trovammo un altro posto di blocco. Il poliziotto al quale mi avvicinai mi intimò l'alt e mi fece cenno di tornare indietro. Io gli dissi semplicemente Makarska, ma egli gridò no Gračac e mi indicò la strada alle spalle. Il messaggio era chiaro: dovevamo tornare indietro. Era buio già da un pezzo quando la strada divenne più larga e arrivammo in vista della cittadina. Un vecchio camion era fermo sulla parte destra della carreggiata. Un tronco d'albero era stato posto di traverso sull'asfalto. Ormai era chiaro che stava succedendo qualcosa di grave e che non saremmo riusciti a tornare a Makarska tanto facilmente. Le persone che stazionavano per strada non avevano un'aria tranquilla, tutt'altro. Alcuni si agitavano e parlavano tra loro, gesticolando animatamente. Quando si accorsero della nostra presenza, si zittirono e guardarono la nostra auto cercando di capire chi fossimo. Scesi, mi feci avanti per parlare con i tre e, soprattutto sperando di riuscire a farmi capire, dissi lentamente ad alta voce: turisti italiani! I tre uomini continuavano ad avvicinarsi. A un tratto uno di loro cominciò a parlare in slavo, ad alta voce, rivolgendosi chiaramente a noi due. Non capivamo niente di quello che diceva, ma era chiaro dal tono di voce che non si trattava di nulla di amichevole. Che urlava a posto di blocco non l'ho visto bene in faccia, non sarei neanche capace di descriverlo. Una persona con barba e baffi, scuro in volto, non ben vestito, ma non saprei dire di più, anche perché era molto buio. Cosa ho pensato? Veramente in quel momento ero spaventatissimo e non ero capace di pensare niente. Pensavo solo a come riuscire a tirarmi fuori da quella situazione. Negli anni successivi ho ripensato spesso a ciò che accadeva in quei concitati momenti. Il rumore dell'auto che arriva e Gabriel che scende, si avvicina al gruppo dei manifestanti chiamandone alcuni per nome. E poi ancora lui che si rivolge a noi gridando Zadar, Zadar e ci intima di tornare indietro. Arrivammo a Makarska all'alba, distrutti dalla stanchezza. La sera successiva Gabriel ci spiegò come meglio poté gli avvenimenti di quella notte. La zona che avevamo attraversato era un'enclave serba in territorio croato. La popolazione serba aveva indetto un referendum con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza dalla Croazia. La polizia croata aveva cercato di impedire lo svolgersi della manifestazione. Ne erano scaturiti dei disordini ai quali avevamo in parte assistito. Dopo quel viaggio scrissi più volte a Gabriel, mandandogli delle foto di quella vacanza. Egli rispose sempre puntualmente, ma quando la guerra in Jugoslavia ebbe la sua terribile escalation, non ebbi più sue notizie. Poi, un giorno come tanti, qualche tempo dopo, ricevetti una strana lettera con un francobollo tedesco. La grafia con la quale era scritto era inconfondibile. Era lui, Gabriel. Mi scriveva che prima della guerra aveva mandato sua moglie e i bambini in Germania ad alcuni parenti ad Hannover. Lui era rimasto a Sarajevo, bloccato dai bombardamenti, senza lavoro e senza casa. Solo più tardi era riuscito a raggiungere la famiglia. Adesso cercava con molte difficoltà di sbarcare il lunario con lavoretti saltuari. Era chiaro che si trovasse in difficoltà. Dopo la guerra Gabriel è tornato in Jugoslavia e ora vive a Makarska con la famiglia. Ha costruito una piccola casa dove la scorsa estate siamo andati a trovarlo. Quando ha saputo l'ora prevista per il nostro arrivo è sceso dalla strada statale alle porte di Makarska e ci ha aspettati. Nel vedere da lontano quella figura sul ciclomotore non ha avuto un attimo di esitazione nel riconoscerlo. Non aveva più i riccioli rossi, ma lo sguardo era sempre lo stesso di 10 anni prima, quando ci aveva accolti più o meno nello stesso punto. Dopo i saluti Gabriel ha detto: «Sono felice di rivedervi adesso che la situazione politica nei Balcani è tranquilla». Giorgio e io ci siamo guardati. «Balcani, Gabriel, si dice Balcani», ha detto Giorgio ridendo. In quel momento mi è sembrato di rivivere una scena già vissuta e che 10 anni, tutto sommato, fossero trascorsi in un istante. Direi sei Gabriel, Michele dalla foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, ma in vacanza non in Jugoslavia, mi pare un posto del nord Europa, direi. Lui guarda in camera e alle sue spalle una spiaggia, il mare e quello che rimane di una marea che si è ritirata. Pronto Michele? Ciao Matteo, buona serata. Grazie mille, come stai? Benissimo, grazie, molto meglio adesso che ho sentito la storia, ti ringrazio tantissimo. Ma figurati. Mi hai stupito e commosso quasi, non pensavo che l'avessi resa così bella, bravissimo. Guarda, hai fatto tutto tu, me l'hai mandata tu e io l'ho solo tagliata perché era molto lunga. Senti Michele, dove sei nella foto che ci hai mandato? Sei in Bretagna? Sì, guarda, sei vicinissimo, sono su una spiaggia della Normandia. Sono da Romanche, okay. Si vedono i remasuri del porto che avevano costruito gli alleati per scaricare i materiali per la testa di ponte durante lo sbarco. Michele, invece torniamo in Jugoslavia, o meglio, torniamo all'ultima volta che ci sei andato. Quando hai incontrato Gabriel? Quanti anni fa, quando l'hai rivisto? Tantissimi anni fa ormai, sono passati moltissimi anni, perché 90-2000 praticamente, diciamo, 10 anni dopo. Ok, quindi sono 14 anni fa. Non siete più ritornati, non l'hai più sentito? No, non ho più notizie, Però nel 2000 quando ci sei andato stava bene di fatto, cioè lavorava, era... Sì, tutto ok. E che cosa, è vero che l'avevi conosciuto solo per pochi giorni e in estate, però in quei 10 anni in cui in Jugoslavia sono successe tutte quelle cose che sappiamo, tu li hai un po' visti, no, attraverso una persona, era cambiato qualcosa in lui, era una persona diversa, aveva meno speranza? Assolutamente diverso, ma comunque diciamo che quasi normale, direi, come se la guerra fosse stata un'esperienza che ti ha segnato, che però si tentava di superare in tutti i modi, insomma. Quella chiaro, insomma, che alla fine la vita è sempre più forte di tutto quello, certo, che ci lasciamo alle spalle. Michele, tu invece, e ho detto questa roba come se fossi un prete, Fabio, ti è piaciuta? L'ho buttata lì sta frase, manco fossi su un pulpito di una chiesa. Michele, mi ricordi che lavoro fai? Fai l'agente di commercio? Io sono agente di commercio, sì. Ma quindi sabato passi dalla fiera agenti.it? Ne sarò felice, veramente, davvero. Guarda, noi siamo là alle 14:30 a fare un piccolo live. Perfetto. Bravo. Dai. Invece tu sei di Bari, però, mi dicevi. Sì, Michele. Io sono barese, trapiantato a Milano da molti anni. Per motivi di lavoro. Lavoro, di lavoro o amore? Lavoro, famiglia, amore, tutto. Cioè, nel senso che hai trovato l'amore qui o te lo sei portato da Bari? No, l'ho trovato qui. Ah, ok, quindi di fatto sei milanese. Sì, assolutamente. Michele, senti, ti ringrazio molto per la telefonata, grazie per la storia, noi ti aspettiamo a questo punto sabato. Grazie. Noi alle 14.30 tutti gli agenti di commercio che si trovano lì, noi raccontiamo storie, tu pensa un po', di agenti di commercio. Ciao Michele, grazie. Ciao. E alla fine, dalla storia di Michele, ho capito che, primo, quegli anni nei Balcani, insomma, non se la sono passata per niente bene. Secondo, che fidarsi delle persone spesso è un bene. Terzo, le strade tortuose il più delle volte non portano molto lontano. Quarto, ho capito che le vacanze estive sono più emozionanti di quanti si pensi. E quinto, mi è venuta una gran voglia di conoscere Gabriel. Non ce l'ho ovviamente la possibilità di conoscerlo, però insomma, diciamo che rimane questa idea. 349-238-6666, mentre intanto Miriam Lucchetti continua a ravanare sul nostro profilo Twitter. I miei primi viaggi di volontario in Bosnia, mi scrive qualcuno che non si firma. Ricordo le case distrutte dalle bombe e l'umanità dei sopravvissuti. E poi ancora in Croazia, quello delle porchette l'abbiamo già letto. Non ci sono mai stato, ma ho una bellissima foto stampata dei miei genitori insieme con il ponte di Mostar sullo sfondo, l'originale, quello prima del bombardamento. Marco, io vi ricordo che potete scaricare i podcast ovviamente dal nostro sito, dal sito di Radio 24 alla sezione podcast, o attraverso il profilo di Voi Siete Qui su iTunes, che è in abbonamento gratuito e vi scarica gli ultimi 5. Ci sono anche i podcast dei diari di Voi Siete Qui, che vi invito a scaricare e per i quali vi invito a partecipare. Voi Siete Qui @radio24.it è il nostro indirizzo email, è sempre quello. Prima di salutarvi però, visto che ormai ufficialmente ieri ho visto hanno di fatto attaccato tutte le lucine per le strade, come dire, è Natale, io comincio a dirvelo. Noi giovedì 11 dicembre siamo di nuovo, per l'ultima volta quest'anno, in diretta dal Pirelli Flagship Store di Corso Venezia, cioè è un giovedì, magari fate compere alle 4, noi siamo lì in diretta, e le storie che raccogliamo sono storie di regali di Natale, non di regali di Natale qualunque, non di regali di Natale riciclati, quelli li lasciamo per le trasmissioni delle radio commerciali del giorno di Natale. Che regalo avete riciclato oggi? Se c'è un regalo di Natale che veramente in qualche modo ha cambiato la vostra vita, ve l'ha migliorato, ve l'ha resa più semplice o anche più felice, è arrivato il momento di raccontarlo. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie ancora a Fabio Cantadori, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Michele, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Tiziano, vivo a Saghello e la storia di domani è la mia e parlo di mio padre. Il mio padre durante il periodo della guerra, un periodo piuttosto brutto, non solo per lui ma per tanti altri. Beh, comunque questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.